Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata e buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi Salva Danaio ha rubato, come capita spesso, un tema molto interessante alle pagine delle Sole 24 Ore di oggi. Parliamo di quelle famiglie che, trovandosi in una situazione di improvvisa difficoltà economica, non riescono a rispettare le scadenze dei propri impegni finanziari e un bel giorno si vedono arrivare l'ufficiale giudiziario a casa. Non è una bella situazione, a volte un'onta terribile. Il collega Andrea Candidi racconta sul Sole di questa mattina due storie vere, quella di una casalinga che deve affrontare un serio problema di salute del marito e non riesce più a pagare le spese condominiali, le risorse sono dirottate inevitabilmente altrove, e anche la storia di un piccolo imprenditore la cui azienda è in difficoltà e deve barcamenarsi non poco per far quadrare i conti, non ci riesce e qualcosa ovviamente rimane indietro. Come ci si può rimettere in sesto dal punto di vista economico? Se le risorse non ci sono è difficile. Come si ripiana la situazione finanziaria familiare caduta in una inaspettata difficoltà? Si può fare una chiacchierata con il direttore di banca per concordare un nuovo prestito, ma spesso è dura ottenerlo. Si possono consolidare in un unico prestito tutte le varie rate di finanziamenti diversi, ma c'è anche una terza via. È passata nei giorni scorsi in Parlamento, ha avuto il via libera da parte del Senato. Si tratta di un procedimento che permette di trovare un accordo con i creditori passando per il tribunale. In sostanza, in estrema sintesi, si tratta proprio della procedura di fallimento della persona fisica. Come funziona lo cercheremo di capire oggi con Andrea Maria Candidi, collega del Sole 24 Ore, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Giancarlo Cupane, presidente di Prometeo, una società leader nella mediazione creditizia. Cupane, bentornato a Salva Danaio. Grazie, torno sempre volentieri. Grazie. E benvenuto anche in questo caso, per la prima volta ospite di Salva Danaio, l'avvocato Marco Recchi, segretario generale dell'Unirec, che è l'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero, Gestione e Informazioni del Credito. Avvocato Recchi, benvenuto. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Allora, il tema credo che sia di grande interesse per chi ci ascolta. Parliamo appunto di situazioni di difficoltà finanziaria. Oggi il Sole 24 Ore esplora a 360 gradi questa problematica che, alla luce della crisi economica in corso, sta assumendo appunto una rilevanza notevole. E allora, come si fa ad uscire da una situazione di troppi debiti? Ne parliamo questa mattina. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, ma come sapete bene ci potete anche scrivere al 349 238 6666. E siccome è un tema che è di grande interesse per voi, direi di andare subito alla borsa, la raccontiamo velocemente, lo abbiamo già fatto nel giornale radio. C'è un quadro negativo oggi fra i listini europei che sono partiti malino stamattina ma hanno peggiorato via via la loro situazione. D'altronde siamo reduci da una serie di sedute invece piuttosto positive, da un buon recupero che i mercati azionari hanno cominciato dal 9 marzo scorso, adesso quindi qualche presa di beneficio ogni tanto è anche abbastanza ragionevole attendersela. E Parigi sta perdendo il 2%, Francoforte il 2,38%, Londra perde l'1,29%, Milano l'1,78%. Oggi abbiamo molti acquisti proprio nel comparto bancario. Oggi abbiamo un'altra importante trimestrale che arriva dagli Stati Uniti, quella di Bank of America, e supportata dal appunto settore bancario. Oggi la borsa vede a Milano particolarmente acquistato il Banco Popolare, più 4 punti, Unipol più 2,96, questo titolo è sugli scudi ormai da diverse settimane, Fiat guadagna un punto. Era partito il lingotto con un rialzo del 6%, poi ridimensionato, il titolo aveva raggiunto e superato gli 8 euro, un livello che non si vedeva dall'ottobre dello scorso anno. CIR più 1, Luxottica più 0,7, titoli con il segno meno davanti, Bulgari meno 4,63, Monte dei Paschi meno 4, Mediobanca meno 3,80, Mediolanum meno 3,78%. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Oggi ritorniamo su famiglie ma anche sui piccoli imprenditori spesso stretti nella morsa dei debiti. Come ci si rimette a galla? È sicuramente uno dei problemi più gravi e dibattuti degli ultimi tempi. Parliamo del sovraindebitamento di molte famiglie italiane, costrette tutti i mesi a fare i conti con mutui, a rate di finanziamenti per acquisti più o meno necessari, saldi di carte di credito e così via. La crisi economica ha inoltre peggiorato la capacità di rimborso delle famiglie indebitate e ha fatto lievitare le cifre richieste a prestito. Da una media di debito di 19.600 euro nel 2007 si è passati a 25.400 euro nel 2008. Solo l'anno scorso, poi, sono stati accesi nuovi finanziamenti per oltre 46 milioni di euro, per un totale di 70 milioni di operazioni. Tra le forme di indebitamento più diffuse, sono cresciute la cessione del quinto dello stipendio, del 31%, e l'uso delle carte, revolving e non, che è aumentato dell'8%. Ma che succede se alla fine del mese non si riesce più a fare fronte ai debiti contratti? Forse non tutti sanno che esiste un modo per tenere sotto controllo le spese rateali e ridurre anche il peso da pagare. La pratica, già molto diffusa all'estero e ormai offerta anche da molte finanziarie e banche italiane, prende il nome di prestito di consolidamento. L'operazione, molto semplicemente, estingue i singoli debiti contratti nel tempo con più istituti creditizi, unificando tutte le rate in un unico rimborso mensile. In situazioni estreme, in cui la mole dei debiti è tale da rendere impossibile la restituzione del debito anche facendo ricorso ai propri redditi e beni mobili e immobili, si può ricorrere al fallimento personale. Questa nuova possibilità è contenuta in un disegno di legge approvato al Senato lo scorso 1 aprile e permette di stabilire insieme con i creditori un piano di rientro consacrato in tribunale. Sì, siamo stati forse un po' troppo ottimisti relativamente all'attivazione di questa nuova procedura di cui vi parleremo ampiamente questa mattina. Ancora, per la verità, circola tra le stanze di Montecitorio, però vedremo se entro tempi rapidi potrà essere qualcosa di concreto. Allora, 800 24 00 24, numero verde per gli interventi dei nostri ascoltatori. Cominciamo la nostra chiacchierata con il collega del Sole 24 Ore, Andrea Candidi, che ha coordinato l'inchiesta che esce con il Sole di questa mattina. Un'inchiesta, un esame piuttosto dettagliato sulla base dei dati che abbiamo fino a questo momento sui volti della crisi, sul debito delle famiglie. C'è un'analisi anche sugli immobili interessati a procedure giudiziarie e pignoramenti, e parliamo dunque anche di famiglie che non pagano il mutuo. Esattamente, la questione è proprio questa. L'inchiesta che noi facciamo oggi in realtà è l'ennesima puntata di una serie di approfondimenti che noi abbiamo sempre fatto, da partire specialmente dagli ultimi due anni. Noi cerchiamo di dare un quadro, da una parte, di quello che è la situazione dell'indebitamento delle famiglie e dall'altra quali sono i rimedi che si stanno approntando. Appunto, come abbiamo detto, i dati che noi abbiamo raccolto riguardano i dati dei tribunali, cioè quante procedure esecutive, in sostanza quanti pignoramenti stanno andando verso, diciamo così, la conclusione, e dall'altra anche i dati delle conservatorie, che sono praticamente il primo istituto che viene chiamato in causa quando un creditore chiede il pignoramento di un bene immobile di un debitore. I dati ci dicono che negli ultimi due anni l'incremento di questo tipo di procedura è del 30%. Questo ci porta a dire che l'incremento del rischio, diciamo così, di perdere la casa per le persone che si trovano in difficoltà con i conti, persone e anche piccoli imprenditori, poi vedremo perché, cresce del 30% sostanzialmente. Sebbene, e questa potrebbe essere l'unica forse nota positiva in questa circostanza, nei primi tre mesi del 2009 questo dato, sebbene continui a crescere, è cresciuto, diciamo così, con velocità più bassa. Ridotta. Esatto. Allora, questa è la situazione dalla quale partiamo. Tra l'altro, noi siamo molto spesso, lo dicevi Andrea, abituati, soprattutto in questo contenitore, a parlare di famiglie, quindi di situazioni familiari difficili, ma in realtà in una situazione finanziaria precaria ci si trovano oggi molti piccoli imprenditori che sono comunque interessati a poter rimettere in sesto la propria situazione finanziaria, e quindi parlare con i creditori nella maniera più serena possibile, in modo tale appunto da operare un rientro che metta d'accordo tutti. Qual è questo nuovo strumento legislativo di cui si sta parlando? Ne abbiamo citato noi nella nostra scheda, ma in realtà è una novità che ha avuto il via libera al Senato, adesso però è in passaggio anche alla Camera, se non sbaglio. Allora, il nome a cui è stato dato è Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Dietro queste parole non c'è nient'altro che l'accordo tra il debitore e i suoi creditori. In realtà neanche tutti i creditori, poi vedremo magari perché non tutti. Si tratta semplicemente di una proposta che il debitore deve presentare a tutti i suoi creditori, avallata da un organismo, diciamo così, terzo, che verifica se effettivamente questo piano di rientro consente effettivamente di soddisfare tutti i crediti. Si tratta semplicemente di trovare il modo di colmare nel tempo, ovviamente, quel buco che si ha nei conti di famiglia. È la punta di un iceberg che in realtà, voglio dire, fino a qualche tempo fa probabilmente le famiglie riuscivano da sole nel loro insieme, una sorta di welfare familiare allargato magari agli amici più stretti, riuscivano a soddisfare questo tipo di problema. Oggi non ce la fai più e quindi il creditore si trova costretto ad agire in giudizio. Tu domani potresti evitare la trafila giudiziaria procedendo con questo nuovo procedimento che, tra l'altro, come tu scrivi questa mattina anche sul Sole, parte da presupposti opposti rispetto alla procedura fallimentare classica, esatto. che contempla che siano i creditori a rincorrerti e a chiederti di ripianare la situazione. Esattamente, se dalla una parte la procedura fallimentare classica parte per impulso dei creditori, qui sei tu debitore che ti metti in moto, ti attivi per dare soddisfazione ai creditori e soprattutto per non peggiorare la tua posizione di indebitamento. Secondo te in che tempi avremo a disposizione questo nuovo strumento? Beh, c'è da dire che l'iter al Senato è stato abbastanza veloce, ora è stato approvato il 1° di aprile. Alla Camera è rimasto ancora lì, non è ancora iniziato l'esame. E diciamo che terremo sicuramente aggiornati i nostri ascoltatori sull'iter. Però è possibile che venga approvato anche in tempi rapidi. Certo. Poi magari sulle valutazioni. Sentiamo allora che cosa ne pensano coloro che da anni operano nell'ambito del recupero di situazioni finanziarie delicate. Giancarlo Cupane, presidente di Promete, una società che si occupa di mediazione creditizia, quindi non è che ripiani i debiti delle persone in difficoltà, però è una società di mediazione di prestiti, finanziamenti, e soprattutto vende molti, come dire, pacchetti di consolidamento del debito, che è qualcosa di molto simile rispetto a quello che stiamo parlando questa mattina. Assolutamente sì, dovrebbe essere qualcosa che arriva un attimo prima di quello di cui stiamo parlando stamattina. Mm-hmm. In realtà probabilmente noi vendiamo anche ripianamento di debiti, perché quando si analizza il fenomeno del sovraindebitamento e si cerca di trovarne le cause, si distingue tra sovraindebitamento cosiddetto attivo, indebitamento attivo e indebitamento passivo. Adesso, per farla breve, l'indebitamento attivo è quando il consumatore si è molto indebitato con banche o finanziarie. L'indebitamento passivo è quando il consumatore si trova in difficoltà non tanto per debiti finanziari, ma perché magari si è separato e questo gli comporta una grave di costi. Sì, situazioni improvvise che ti cambiano radicalmente, eccetera. Da un giorno all'altro la tua situazione inaspettatamente. E quindi molto spesso si fa ancora in tempo a chiedere un normale prestito personale per far fronte a queste situazioni. Quello poi che viene dopo è appunto il prestito di consolidamento, che è una pratica, come diciamo spesso, da non considerare quando non si riesce più a far fronte alle rate, ma quando si sta per arrivare a quella condizione. Bisognerebbe essere capaci di prevenire di un mese o due la situazione difficile e rivolgersi quindi a una banca, una finanziaria o un mediatore creditizio, che aggiunge, quando è bravo, la capacità di analizzare la situazione insieme al consumatore, aiutarlo a scegliere il prodotto migliore, e quindi fare un'operazione che di solito fino a 30.000 euro si riesce a fare con un prestito personale. Oltre questo importo si fa con un mutuo di consolidamento, quindi ci vuole un immobile a garanzia, e poi sempre si può fare, se il consumatore è un dipendente o un pensionato, con la cessione del quinto. Quindi in questi casi anche per chi è andato un po' troppo in là e ha già cominciato a non pagare qualche rata. Comunque ci si attiva insomma in prima persona per sistemare una condizione finanziaria divenuta improvvisamente precaria, che è un po' anche la via che dovrebbe perseguire questo nuovo strumento. Sia le nostre strade che quelle di questo strumento presuppongono un consumatore informato e attivo. Questo è quello che sempre ci vorrebbe, credo che l'avvocato Recchi, nelle sue esperienze dei suoi associati, invece ci possa raccontare, purtroppo anche di consumatori che fuggono e che non si fanno trovare, che rendono difficili le trattative. Avvocato Recchi, allora, è stato chiamato in causa, la coinvolgiamo, no, è caduto improvvisamente, non so che cosa sia successo, allora adesso lo recuperiamo. Vabbè, tra l'altro era ad un numero fisso di Treviso, quindi anche piuttosto strano che sia caduto, ma questo non ci importa. E no, perché tra l'altro noi stiamo continuando a parlare di famiglie indebitate come se tutte non facessero altro che chiedere prestiti per fare chissà che cosa. L'avvocato Recchi ci racconterà anche che molto spesso le famiglie non pagano le bollette, per cui sono anche altre società che si attivano per poter recuperare appunto crediti divenuti ad un certo punto inesigibili. Quindi parliamo anche dell'Enel piuttosto che delle aziende, delle municipalizzate. Quindi non è solamente una rata non pagata pagata perché ho fatto un prestito per comprare il divano nuovo. Qua a volte parliamo anche di situazioni più difficili. Sì, no, è quel problema dell'indebitamento passivo, e tra l'altro esistono anche pochi strumenti per contrastarlo inizialmente, perché ad esempio per tutelare, per carità, la privacy dei consumatori, ricordo che nelle SIC, nei sistemi di informazioni creditizie, questo tipo di informazioni non può rientrare, e quindi la banca o la finanziaria non può prevenire questo. La direttiva europea parla di debito responsabile, e quindi coinvolge le banche e le finanziarie fino a un certo livello nelle responsabilità dell'aver sovraindebitato il cliente, ma se il cliente arriva già sovraindebitato da situazioni che la banca non può conoscere, complica la situazione. Avvocato Recchi, ha sentito quello che abbiamo detto fino a questo momento? Forse una parte se l'è persa? Mi sente? Purtroppo sì, no, sì. Adesso la sento, purtroppo. Benissimo. L'ho persa per problemi di linea. Quindi... Ecco, no, in realtà io quando avevo iniziato ad introdurla stavo facendo anche un quadro delle famiglie che si trovano in difficoltà, in qualche modo così dipingendole non tanto come sempre solo delle irresponsabili che si indebitano perché vogliono comprare il divano nuovo o perché insomma magari adesso con lo strumento del credito al consumo ci si paga anche un viaggio, ma perché molto spesso ci si trova, lo dicevamo con Giancarlo Cupane, in situazioni finanziarie del tutto nuove, perché capita una perdita di un posto di lavoro in casa, perché capita un problema di salute che magari può essere molto dispendioso e molto serio, per cui ci sono situazioni di difficoltà che non solo non ci fanno più pagare la rata del condominio, del mutuo, ma anche la bolletta, e qui intervenite voi, insomma voi gestite il recupero crediti di molte aziende. Qual è la situazione dal vostro osservatorio? Sì, come correttamente lei ha detto, effettivamente il comparto del recupero stragiudiziale dei crediti, delle imprese che fanno il recupero stragiudiziale dei crediti, è un comparto che oggi ha un peso molto significativo nel ciclo del credito. Calcoli che solo le nostre associate, che sono 152, hanno da gestire annualmente oltre 22-23 milioni di pratiche, quindi capirà come effettivamente il lavoro sia un lavoro sotto traccia, ma numericamente molto molto forte, diciamo così. Pratiche, e tra l'altro quello... mi introduco brevemente, avvocato, che vengono portate avanti per conto di aziende che peraltro non hanno nessuna voglia, nessuna intenzione di avviare dei contenziosi, no, con le persone dalle quali devono recuperare questi soldi. È proprio così, nel senso che il primo patrimonio è la tutela del nome del cliente, nel senso che ovviamente il goal, l'obiettivo delle società di recupero crediti è portare a casa l'incasso, e quindi l'importo che doveva essere originariamente pagato, ma ovviamente questo preservando sempre il buon nome del cliente affidatario. Ma io una cosa la volevo dire, perché effettivamente forse bisognerebbe introdurre un concetto diverso da quello di cui fino adesso ci siamo occupati, o quantomeno ho sentito nella trasmissione. Sostituirei forse il termine sovraindebitamento al termine cattivo indebitamento, perché se andiamo a vedere i dati che riguardano il nostro paese, poi scopriamo che in realtà il credito al consumo non cresce più come è cresciuto in passato, che il tasso comunque di indebitamento medio delle famiglie italiane è più basso di quello che c'è negli altri paesi, quantomeno dell'Unione Europea. E allora qual è il problema? Il problema è effettivamente il cattivo indebitamento, e cioè che l'indebitamento è un problema che riguarda sempre di più le stesse persone, gli stessi soggetti. E allora anche forse questo fenomeno nuovo a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, di un aumento dei prestiti personali che hanno preso il posto invece dei finalizzati, no? Quindi per esempio non ci si indebita più per comprare l'auto piuttosto che il divano nuovo che ho citato prima, ma proprio perché si ha bisogno di maggiore liquidità per arrivare alla fine del mese, avvocato Ricchi. No, assolutamente, però questo non è in controtendenza con quello che ho detto prima. No, infatti, no, infatti, no, no, anzi lo suffraga, lo supporta, direi. Esatto, quindi forse effettivamente bisognerebbe iniziare tutti quanti a comprendere che un pochino di più che l'indebitamento è anche una questione culturale, e quindi forse anche nelle scuole bisognerebbe avere un approccio alle tematiche dell'indebitamento, diciamo così, molto più pragmatico, per far sì che anche i giovani, che poi sono quelli che vivono in una società che comunque spinge all'acquisto rateale, e sappiano che cosa vuol dire andare a fare un finanziamento, andare, insomma, quello che si chiama l'indebitamento consapevole. Avvocato, guardi, mi devo fermare, no, poi sì, abbiamo anche mezz'ora, un'altra mezz'ora di tempo per ovviamente tornare su questi temi che sono importanti. Noi spendiamo tanto fiato e tante parole anche da questo microfono, ma lo fa anche Andrea sulle pagine del Sole 24 Ore, per tentare di inculcare tutto ciò che attiene all'attenzione verso il mondo del prestito. Poi però, come dicevamo, quello che vogliamo fare stamattina in realtà è analizzare qualcosa che va oltre l'improvvisa difficoltà di chi si trova in una situazione personale improvvisamente appunto modificata. E allora, quando non ce la si fa più, che cosa si deve fare? Abbiamo detto che c'è il consolidamento, c'è la possibilità di ripianare il proprio debito attraverso una chiacchierata con gli interlocutori giusti, che potete essere anche voi in questa fase. C'è poi questo nuovo strumento di cui si sta parlando appunto in sede legislativa. Famiglie, via d'uscita per chi ha troppi debiti, in arrivo la legge sul fallimento dei consumatori, il tema di cui si occupa questa mattina il Sole 24 Ore del lunedì, e ovviamente, come ha l'abitudine di fare spesso, lo ha rubato Salva Danaio per tornare a parlare della situazione di difficoltà delle famiglie particolarmente indebitate, come si fa a ritrovare una condizione di serenità finanziaria. Le vie sono diverse, c'è il consolidamento del debito, c'è la possibilità di parlare con le aziende di recupero crediti, perché queste hanno tutta l'intenzione sistemarsi anche dal proprio punto di vista con chi non è in regola con i pagamenti. E le vie sono tante, ma molto spesso anche la situazione di difficoltà è talmente elevata che trovare una serena procedura per rimettersi in carreggiata non è semplice. Allora, stamattina stiamo cercando di discutere delle vie possibili con Andrea Candidi, collega del Sole 24 Ore, Giancarlo Cupane, presidente di Prometeo, e l'avvocato Marco Recchi, segretario generale dell'Unirec, l'Unione delle Imprese di Recupero del Credito. 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori. Non ho ancora cominciato a sentirli, allora cominciamo subito. Carlo da Udine, io ho già dato un'occhiata in anteprima alla sua domanda, non so se riusciremo a risponderle, speriamo. Benvenuto intanto. Sì, allora sintetizzo. Io ho un debito con l'INPS che risale dall'87 al 91. Premetto che ho versato, per cui sono in pensione, 46 anni questi sono versati, percepisco una pensione di 728 euro al mese, perché al momento di andare in pensione ero talmente rovinato che avevo un commercio, sono andato a finire male, per cui sono andato a finire vittima delle cooperative che non hanno versato quasi niente, sono andato in pensione con una pensione irrisoria. Continuo naturalmente a lavorare. Allora io dico una cosa: dato che vanno in prescrizione reati molto gravi, è mai possibile che uno che ha già pagato 46 anni e prende 728 euro al mese non va in prescrizione un debito che risale dall'87 al 91? L'IMSS non fa andare in prescrizione un reato del genere, come se fossi, non so, un assassino, non so. Prendiamo atto, Carlo, di tutta la sua amarezza rispetto a questa cosa. Detto questo, Carlo, lei in che situazione si trova in questo momento? Perché ha chiesto il nostro aiuto? Appunto per sapere come mai che l'IMSS non dà in prescrizione, cioè si è fatta, l'IMSS si è fatta avanti e mi ha bloccato una piccola eredità di mia mamma. Io ho un debito con l'IMSS di quel quadriennio di 10.500 euro. Avrei la possibilità di un'eredità di 15.000 euro di mia mamma, che è morta 5 anni fa. E quindi chiudere insomma serenamente questa vicenda. Qui non posso toccare un euro di questi. Beh sì, effettivamente sembra un po'. E finché gli altri ereditieri, diciamo, sono in vita, è chiaro che l'immobile non viene venduto, per certo, cui la sua quota parte non può entrare in possesso, immagino, non lo so. Cioè, capisce la situazione. Allora uno paga 46 anni, percepisce 728 euro al mese, che questo basta risalire nel computer, a mio nome si vede. Fabio Carlo 1/11/41, ho iniziato a lavorare nel 56, sto ancora lavorando naturalmente più a nero, che però 46 anni sono versati. Carlo, sentiamo cosa ci possono suggerire i nostri interlocutori di questa mattina. Avvocato Recchi, credo che lei sia la persona più giusta per un caso di questo tipo. Non so, per esempio, voi lavorate per l'INPS anche per situazioni analoghe a quella del nostro ascoltatore? Dunque, aspetti un attimo. Nel senso che bisogna fare una precisazione: le società di recupero stragiudiziale dei crediti non sono dei concessionari alla riscossione, quindi noi siamo nell'ipotesi di un sollecito bonario e quindi non hanno la parte appunto di riscossione dei tributi, che invece avviene poi nelle modalità che comunque sono diverse. E per quanto riguarda la domanda specifica che è stata fatta, e lì bisogna andare a vedere se ci sono stati degli elementi interruttivi della prescrizione. Immagino di sì, nel senso che il diritto di credito in Italia è ben disciplinato dal legislatore all'interno del codice civile. Però ci sono degli elementi interruttivi. Se nel corso del periodo di tempo, da quando è sorto il diritto di credito dell'ente a oggi che lo va a richiedere, ci sono state delle richieste, è evidente che si riparte sempre da capo. E se no, viceversa, i termini per la prescrizione del diritto sono sempre gli stessi. Sono no, peraltro, anni, sì, infatti. Anni, esatto. Quindi, se lui ha ricevuto nel corso degli anni dei solleciti, la prescrizione interrompeva i suoi termini, esatto, naturalmente. Quindi, diciamo, partendo da una situazione, diciamo, teoricamente di ragione, anche emotivamente possiamo dare, come dire, il nostro supporto morale al nostro ascoltatore, però poi di fatto nella procedura evidentemente sono state seguite le strade corrette. Detto questo, la situazione di Carlo era particolarmente interessante per le condizioni anche economiche che ci raccontava, ovviamente con uno stipendio, adesso una pensione così bassa, lui ha questa problematica che relativa a tanti anni fa, non riesce a sistemarla per ovvie ragioni, perché economicamente non ce la fa, e questa è la situazione tipica nella quale si possono trovare le persone alle quali ci riferiamo questa mattina. Sentirei anche Marco da Pavia per poi andare con Andrea anche a farci raccontare esattamente questo nuovo strumento legislativo, appunto, che la Camera dovrebbe varare a breve per così permettere ai consumatori in difficoltà di ripianare la situazione finanziaria, come dovrebbe funzionare. Sentiamo però intanto Marco. Marco? Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marco da Pavia. Sì. Ecco, volevo fare una domanda ai suoi ospiti. Sì. Allora, io ho contratto 5 prestiti con 5 finanziarie diverse. Purtroppo poi il momento di crisi, lo sappiamo tutti qual è, la ditta per cui lavoravo è stata alcuni mesi che non ha più versato lo stipendio in banca, e sono rimasto arretrato con le rate. Appena avuto lì i soldi ho cercato di mettermi in contatto con le finanziarie, di cui 4 finanziarie abbiamo trovato un accordo per restituire il debito. Una di queste, posso anche dire il nome se vuole, sì, sì. Vedo che è una molto conosciuta peraltro, quindi. Fin Domestic Banca, sì. Allora, io ho due prestiti con la Fin Domestic, una di Milano e una di Firenze. Con questa di Milano non c'è stato nessun problema, abbiamo trovato l'accordo. Questa qua di Firenze, che l'ho pagata per alcuni anni, mi ha richiesto in unica soluzione il debito che avevo con loro. Anche questa è una cosa curiosa, insomma, se la società opera a seconda della sede in maniera diversa, singolare. Esatto. Sì. Però io avevo detto a loro, con questo funzionario che mi ha chiamato alla banca, che avrei potuto restituire 400 euro al mese. E lui mi fa: no, guardi, non mi manda pure questi soldi qua perché glieli mando indietro, noi vogliamo un'unica soluzione. Ecco, io a questo punto cosa devo fare? Io so che loro vogliono andare alla lunga per mettere su interessi e tutto quello che viene e poi no, ma è strano, Marco, perché anche questo incaponirsi, non volerla stare ad ascoltare quando lei già si è messo a posto con le altre, e io spero che lei possa continuare naturalmente ad onorare i suoi prestiti, anche perché, come dicevamo prima, avviare un contenzioso anche per piccoli importi ad una finanziaria non conviene assolutamente, per cui anche, insomma, mettersi in una posizione di non voler dialogare. Giancarlo Cupane, sì, no, questa è tutta sua. Credo che in un caso di questo tipo, allora, visto che si parlava di Fin Domestic ha sede a Firenze, sì, e filiali in tutta Italia, quindi probabilmente quella di Milano è possibile che il responsabile della filiale di Milano si comporti in maniera radicalmente diversa. Il responsabile di filiale probabilmente ha ritenuto interesse anche giustamente della Fin Domestic Banca dare il tempo al cliente di pagare. Probabilmente il ragazzo operatore del call center a Firenze non ha capito che invece era interesse della sua banca andare incontro al cliente. Io potrei provare a consigliare al nostro ascoltatore, che magari per carità l'ha già fatto, di chiedere alla Fin Domestic di Milano di aiutarlo nella trattativa con la sede Fin Domestic, perché probabilmente appunto a Milano parla con un responsabile filiale che ha un raziocinio, una conoscenza delle cose e che lo aiuta a sistemare anche la questione dall'altra parte. C'era un'altra domanda per lei, Cupane, non era esattamente per lei, credo che lei sia la persona giusta. C'è un ascoltatore che chiede al 349-238-6666 se, qualora fossimo interessati ad un prestito di consolidamento, andiamo in banca a chiederlo, se la banca è obbligata a farci titolo. No, no. No, la banca non è assolutamente obbligata, ovviamente. È un prestito come un altro, siamo un ancora, formato sì, diverso. Nell'ambito di operazioni negoziali, dove conta il merito di credito, la possibilità di restituire le rate. Diciamo che ha tutto l'interesse a farlo. Chiaro, esatto, è chiaro che se la banca è una delle mie creditrici, ha interesse ad avere un cliente che al limite in più tempo, pagandoci comunque peraltro gli interessi che ha il mestiere della banca incassare, che comunque in più tempo può pagare, anziché restituire in meno tempo col rischio di non farcela. Quindi normalmente, se la pratica è fattibile, la banca è ben felice di farlo. Ai prestiti di consolidamento vanno agganciate cupane anche delle polizze assicurative contro, che ne so, eventi straordinari. Guardi, quello delle polizze è un discorso interessante, si aprirebbe infatti un mondo, cerco di rispondere in 10 secondi. Richiudiamolo subito. Si possono agganciare, il mio consiglio è di farlo, scegliendo però come consumatori attivi quelle giuste, che tutelano anche il cliente, che non, e non solo la banca, o mi lasci dire, non sono magari solo fonte di ricavi per la banca e prive però magari di vero contenuto di utilità. Se ci ricolleghiamo sempre al discorso degli indebitamenti passivi, cioè quelli subiti per la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione eccetera, esistono polizze assicurative che aiutano il cliente a coprire questi casi, però noi sappiamo che gli italiani non sono abituati ad assicurarsi nel campo danni, se non per le polizze obbligatorie. Spesso stipulano polizze assicurative che gli vengono proposte in banca, ma che assistono la banca, quindi che in caso di perdita del posto di lavoro estinguono il debito, ma non danno nulla al cliente. Inviterei i consumatori a occuparsi più attivamente appunto anche della scelta delle polizze che assistano il prestito. Tra l'altro, consumatori, mi viene in mente Associazione dei Consumatori, c'è la di Consum che ha attivato da qualche anno un fondo di, lo chiamano antiusura, con la collaborazione anche di alcune società finanziarie. Magari poi spieghiamo anche per correttezza in che cosa consiste questo strumento. Giancarlo Cupane lo conosce bene. Non abbiamo invitato un'associazione dei consumatori perché li abbiamo molto spesi, oggi già eravamo in molti, ma sicuramente abbiamo già avuto modo di parlare di questo fondo, e allora così, insomma, per correttezza e completezza di informazione abbiamo spiegato che c'è anche questo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Chiedo ancora un minuto di pazienza a Vito dalla provincia di Novara, perché con il collega Andrea Candidi volevo un po' spiegare, qualora entrasse il nostro ordinamento in funzione questa nuova procedura che permette di ripianare una situazione finanziaria difficile, precaria, passando per le vie del tribunale, insomma, questo nuovo procedimento, come concretamente, Andrea, come funziona? Come funziona? Dunque, il debitore presenta un piano di rientro dei suoi debiti, lo presenta presso questo organismo di composizione della crisi, diciamo così, da indebitamento. Questo organismo può essere composto da professionisti quali avvocati, notai o commercialisti, i quali si attivano e cominciano anche a sentire, diciamo, i creditori, e quindi verificano se è il caso di correggere il piano di rientro, che la legge in realtà non dice nulla su come deve essere fatto questo piano di rientro, questo piano di ristrutturazione. Però tu un'interpretazione l'hai data. Possiamo immaginare che si tratti della rateizzazione dei debiti, sostanzialmente. Dopodiché, una volta che l'organismo dà il suo ok, questo accordo finisce al tribunale. Il giudice a questo punto chiama tutti i creditori con una iter piuttosto veloce, se non ricordo male nel giro di 30 giorni i creditori devono far avere il consenso o il dissenso. Qualora alla fine di questa procedura l'80% dei creditori titolari, cioè l'80% dei crediti dei titolari dei crediti del debitore se danno il consenso, allora il tribunale dà l'ok, il giudice dà l'ok al piano di rientro. Naturalmente il giudice può sempre pure lui modificare il testo dell'accordo. Naturalmente questo comporta anche degli impegni da parte del debitore. Si deve comportare, insomma, in maniera virtuosa. Beh, sì, diciamo, con le proprie finanze. Assolutamente. Ad esempio, il giudice potrebbe imporre al debitore di non utilizzare il bancomat, di non utilizzare la carta di credito, oppure di non stipulare ulteriori prestiti personali. Lo tiene un po' stecchetto, insomma, esatto, il giudice. Esatto. Avvocato Recchi, Unirec, Unione delle Imprese di Recupero, secondo lei è necessario l'avvento di questo nuovo strumento nel nostro ordinamento? Guardi, sinceramente ci sto pensando, perché crea degli interrogativi molto, molto forti. E una domanda che faccio: ma il creditore che rimane fuori perché magari non è stato avvisato, che conseguenze ne ha. Il conseguenza Candidi annuisce era un problema che si era posto anche lui analizzando il testo che aveva a disposizione. Poi negli altri paesi c'è un rapporto per quanto riguarda l'indebitamento, soprattutto nei paesi di diritto anglosassone, che è veramente, veramente diverso che nel nostro. Nel nostro, forse prima Cupani citava anche la normativa sulla riservatezza, che è una normativa che noi abbiamo recepito in maniera anche un pochino più stringente di quello che accade negli altri paesi. E, insomma, voglio dire, io sinceramente ho un po' di timore che forse una norma di questo genere, che nasce con dei presupposti estremamente condivisibili, possa poi però produrre una normativa poco efficace sotto il profilo che magari prima ci interessava di più, quello dell'educazione. Non vorrei che fosse vista come un'ennesima scappatoia. Allora bisognerebbe invece cercare, magari anche attraverso questa norma, di introdurre dei principi preventivi più che soltanto esclusivamente finalizzati a risolvere delle problematiche genetiche. Certo, allora, avvocato, in un contesto più ampio potrebbe avere, credo, in senso un intervento legislativo, però le leggi che vanno sempre a tamponare, a inseguire determinate problematiche, non credo mai che siano delle buone leggi, sinceramente. Il tema è che adesso, come dire, ci troviamo a gestire invece un aumento esponenziale delle situazioni problematiche, pertanto appare urgente. Non trova? Sì, sono d'accordo con lei, ma non è che tutte le problematiche si risolvono con una legge nuova, e se no il Parlamento farebbe un sacco di leggi, e forse i problemi hanno bisogno anche di essere affrontati e gestiti dai professionisti in maniera dinamica, nel senso che delle soluzioni che forse prima non erano ipotizzabili, oggi, alla luce anche della crisi economica, nello specifico della gestione dei crediti, possono essere ipotizzati. Ad esempio, il saldo e stralcio: avevo contratto un'obbligazione rateale, non ce la faccio più a pagarla, magari ho la possibilità, perché in Italia le famiglie comunque rimangono generalmente possessori di immobili, questo ci dicono le statistiche, magari esitando un bene, vendendo un immobile che magari non è quello d'abitazione, se hanno avuto la possibilità di averne un altro, possono proporre dei piani con dei saldi e stralci. Che è un po', credo, immagino, la strada che voi generalmente suggerite di seguire. Quindi, diciamo, siccome fino a questo momento abbiamo parlato di qualcosa che ancora non c'è, ma che potrebbe esserci presto, adesso andiamo invece a continuare ad analizzare le strade che sono già percorse e credo anche con successo. Devo sentire un altro ascoltatore, però 10 secondi con Giancarlo Cupane. Voglio farmi anche spiegare, ricordandolo, come funziona il fondo antiusura dell'Associazione dei Consumatori, salutando il nostro amico Fabio Picciolini di Adiconsum. E allora cos'è questo paracadute che loro hanno studiato, ideato e attivato da tempo? Questo fondo, e oltre ad aver presentato in passato poi una proposta di legge sul tema che ci riguarda oggi, è un fondo che è stato creato dalla legge 108 del 96, quella appunto sull'usura, che pure viene riformata in questo provvedimento di legge che si occupa dei due temi, tentando di rendere più semplice appunto l'accesso al fondo. E in estrema sintesi è un fondo a cui ci si può chiedere aiuto, salvo un'istruttoria appunto fatta da associazioni tipo Adiconsum, ma solo se si è denunciato un caso di usura. Quindi interviene veramente per una platea molto ristretta di clienti, di consumatori. Vito dalla provincia di Novara, rapidissimo, la scongiuro, grazie. Benvenuto intanto. Sì, buongiorno. Ci dica. Mi sente? Sì, sì. Niente, il mio problema era, appunto, in parole rapide, ecco, io ho la moglie che da 4-5 mesi è dichiarata cassa integrazione, così figurativa, però le dico questo perché non percepisce un centesimo. Ecco, contratto un finanziamento, anche prima questo problema, volevo sapere se, perché io ho fatto da garante come marito, potessi andare in mezzo anch'io, non so, cioè eventuale pignoramento di un recupero di questo credito. Sì, Vito. È l'ultimissima, avendo un bene, lei tipo, non so, dico addirittura l'automobile, se può essere, non so, pignorata. Ecco. Giancarlo Cupane ci aiuta. Sì. Allora, sicuramente il marito è coinvolto proprio perché ha fatto da garante, quindi c'è la sua firma, quindi se la signora non può far fronte al debito, a questo serve il garante, purtroppo li verranno a chiedere anche a lui. Il consiglio è chiamiamo preventivamente la finanziaria, spieghiamogli la situazione, diciamogli che vogliamo pagare, visto che comunque il marito purtroppo deve collaborare. No, poi ce ne sono molte anche che... evitiamo il pignoramento dell'auto, esatto, rimborsando in modo diverso. Molte finanziarie nel nostro paese, Giancarlo Cupani, sì, lo sa bene, proprio in virtù di queste situazioni nuove che stanno maturando, stanno proponendo in via attiva di procrastinare. Esatto, la finanziaria non ha alcun interesse a portare a sofferenza il credito, anche dal punto di vista patrimoniale, Basilea 2, dove vanno a finire quei crediti nel loro bilancio, hanno solo interesse a portarli a tenerli in bonus, diciamo. Quindi se, l'importante è che il cliente si faccia sentire. Adesso non voglio essere polemico, ma se il garante si dice ma io devo veramente pagare se sono garante, certo che deve pagare, però che paghi con i tempi dovuti, che senta lui la banca, che pianifichi una restituzione un po' più lenta, magari nel frattempo la moglie ritrova il proprio lavoro e può anche far fronte serenamente. Allora, vi ricordo che da domani trovate in edicola con il Sole 24 Ore il nono volume della storia dell'economia mondiale dal titolo Fra modernizzazione e arretratezze, profondi divari fra nord e sud del mondo. Ecco come ogni lunedì una breve pillola tratta da questo volume. Ascesa, crisi e riforma dello Stato sociale, di Maurizio Ferrera. Le origini del welfare state risalgono alle misure di assistenza ai poveri, sviluppatesi in tutti gli stati europei a partire dal XVI secolo e codificate in alcuni di essi in un insieme organico di leggi a carattere assistenziale repressivo. Il decollo vero e proprio del moderno Stato sociale avvenne nel XIX secolo e fu preceduto da un periodo di rottura liberale, che mise in crisi la legittimità del paternalismo assistenziale conservatore, stimolò l'associazionismo privato e sperimentò le prime forme assicurative, seppure di natura privatistica e volontaria. Il punto di svolta fu tuttavia rappresentato dall'introduzione dell'assicurazione obbligatoria, avvenuta in quasi tutti i paesi europei nell'ultimo ventennio del secolo. E anche oggi è terminato il tempo a disposizione di Salva Danaio. Io ringrazio molto per essere stati con noi Andrea Candidi, Giancarlo Cupani e l'avvocato Marco Recchi. Sicuramente vi rimetto insieme molto presto, perché il tema che abbiamo affrontato stamattina è molto interessante. Soprattutto è bene che le famiglie sappiano sempre quello che possono e devono fare quando si trovano in situazioni di improvvisa difficoltà. Salva Danaio torna domani. Grazie a tutti, buona giornata. Salva Danaio.